Questo sono io, tutta una vita per cercare di capire. Il finto inverno misto al quasi eterno sole, cercare di capire se poi alla fine è stato meglio rinunciare. Questo sono io, eppure inizio bene ma non so finire. Rifaccio cose che dovevano servire a non ricadere per non pagare più lo stesso errore. Sempre io per non morire ho tatuato te. Sappi amore mio che adesso io e te siamo diventati noi. I giorni persi sono giorni da rifare. Senti amore mio, sappi amore mio, sappi amore. Sapermi accettare, te lo voglio dire, io più te fa noi la somma, io distratto e tu perfetta. Sempre io per non morire ho tatuato te. Sappi amore mio che adesso io e te siamo diventati noi. I giorni persi sono i giorni da rifare. Senti amore mio, che ho deciso di tenere qui tra poco nevica. Sappi amore mio, questo sono io.